Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanti device tecnologici possedete? Quanti avete in previsione di comprarne nei prossimi mesi? Smartphone, tablet, TV, e-reader. Iniziate a contarli. Io intanto vi dico che gli italiani in media ne possiedono 6 e il 60% di loro li utilizza contemporaneamente anche per usi diversi, contro il 49% della media nel resto del mondo. Nel primo dei nostri approfondimenti racconteremo nel dettaglio questi ed altri dati di uno studio firmato Accenture che fotografa i consumi elettronici non solo nel nostro paese. La tecnologia intanto entra anche nei camerini dei negozi al servizio del fitting perfetto, ne parleremo nello spazio retail. Non solo telefonini, a un'altra cosa non rinunciano i consumatori, l'indice lipstick non sbaglia, i cosmetici. Il settore resiste alla crisi, si conferma aciclico e vanta un export che porta la produzione italiana di eccellenza nel mondo. Fare cultura, sollecitare la coscienza civile con uno spot, questo fa dal 1971 Pubblicità Progresso, che con la sua penultima campagna, quella sulla donazione d'organi, raggiunge un importante risultato. In chiusura, come sempre, il nostro Italian Factor. Siamo all'ultimo caso aziendale che segna il cambiamento, si tratta di un vero e proprio moltiplicatore del Made in Italy. Parliamo di Yoox, la piattaforma di e-commerce leader nella moda e nel design. La borsa della spesa. I'm Eliza Dooley. I wasn't always this fab. I used to be butt ugly, but I blew out my curls and pushed up the girls, traded likes for likes, and I was insta famous. Andrà in onda in autunno su ABC Selfie, la serie TV sulla dipendenza da social network, un ulteriore indizio di quanto TV e web ormai incrocino i loro contenuti. La TV è sempre più social, con i commenti e la condivisione dei contenuti televisivi online, e la rete è affamata di contenuti, vuole diventare in tutto e per tutto un broadcaster. Tra tweet che parlano di TV, che parla a sua volta di social network, la serie TV, inutile dirlo, punta a generare molto traffico in rete. Lo scenario insomma si fa complicato anche per l'affollamento di device, di dispositivi tecnologici in mano ai consumatori. Più di 3 italiani su 10 entro fine anno intendono acquistare un nuovo smartphone, il 25% una smart TV, il 14% sostituirà il proprio tablet. Questo ci dice l'Accenture Digital Consumer Survey 2014, una ricerca che analizza il comportamento digitale di 23.000 consumatori di tutto il mondo. Si stima che entro il 2017 il numero di dispositivi connessi supererà, pensate, la popolazione mondiale, rivoluzionando il panorama dei media. Ne abbiamo parlato con Massimo Morielli, Managing Director Media and Entertainment di Accenture. Beh, sicuramente è un segnale positivo per il comparto dei produttori di dispositivi elettronici, ma anche la conferma di una stima che risulta al nostro studio, che dice che entro il 2017 il numero di dispositivi connessi supererà la popolazione mondiale, quindi un dato sicuramente rilevante, e quindi molto probabilmente la nascita anche di una nuova era di voglio dire, esperienze di fruizione di media e di TV completamente ad hoc e personalizzate, a mio modo di vedere. Perché sempre di più la connessione è stretta tra il device e i contenuti digitali. Partiamo da questi. Quali sono quelli preferiti dagli italiani e voi andate a focalizzarli nella ricerca? Dalla ricerca emerge che i contenuti a cui accedono abitualmente gli italiani via internet sono in larga misura user generated content, quindi contenuti generati dalle persone stesse, gli utenti stessi, che sono al 96%. al 94% programmi TV e film e videoclip, oltre naturalmente all'informazione che è quasi il 90%, 87%. Invece preferisco ancora rimanere offline su temi tipo libri e giochi. Italiani non solo fruitori di contenuti, ma anche produttori e molto propensi alla condivisione, così? È assolutamente così, e qui abbiamo un dato interessante che ci confronta con il global nella ricerca. L'80% non si limita appunto a una fruizione passiva, ma è un creatore di contenuti digitali in Italia, rispetto alla media globale che è al 70%, mentre la propensione, diciamo, alla condivisione con altri utenti è al 60% rispetto a una percentuale più bassa all'estero, che è in media 59%. Questo è sicuramente un dato interessante, anche perché, a mio modo di vedere, a mio parere, proprio la componente social e quindi la condivisione sta cambiando e cambierà sempre di più il modo di fruire dei contenuti. Un esempio che mi ha colpito molto: durante, mi pare fosse la semifinale di The Voice of Italy, uno dei giudici, J-Ax, ha twittato il numero di cellulare di Noemi, che era l'altro giudice. Questo ha scatenato un numero di telefonate molto alto, ed è, a mio modo di vedere, al di là dello scherzo in sé, una dimostrazione forte del fatto che il social può rafforzare, diciamo, l'ingaggio e l'attenzione rispetto al contenuto che viene poi erogato in quel momento su un mezzo tradizionale come la TV. Quindi la capacità di, come dire, integrare il canale social con il canale classico tradizionale sarà un tema molto, molto importante. Quali logiche porterà con sé questo avvento, questo radicamento della social TV? Abbiamo visto, gli italiani appunto sono molto pronti per questi esperimenti. Potrà influire anche dal punto di vista dei contenuti pubblicitari? Beh, sicuramente i contenuti pubblicitari, per come siamo abituati a vederli noi, 30 secondi tradizionali in TV eccetera, saranno sempre di più qualche cosa su cui ci sarà necessità di fare un cambiamento, perché il social vuole anche dire frammentazione di fruizione, e vuole anche dire quindi necessità di una conoscenza più profonda del consumatore, che a questo punto, proprio per il fatto che in qualche modo andrà ad accedere ai contenuti su più device, in momenti diversi eccetera, sarà anche più, tra virgolette, difficile da colpire con il messaggio di pubblicità nel momento giusto e corretto. Cambiamo argomento, ma continuiamo a parlare di tecnologia, dal Magic Fitting Room alle modelle virtuali vicine alle donne vere, fino ai camerini intelligenti. Nel retail il fitting diventa sempre più smart. Codice a barre di Cristina Lazzati. A misura di cliente, quante volte l'abbiamo letto sulle vetrine dei negozi, constatando che il testimonial riprodotto poco aveva a che fare con l'immagine che vedevamo riflessa allo specchio in vetrina? In risposta a questa esigenza è nata Sizeable, un sito di shopping online australiano dove le modelle sono 6 donne normali con forme diverse e neppure una da stilata. Si sceglie il fisico più vicino al nostro e poi si parte con lo shopping. L'online non convince? Meglio la prova camerino? Anche qui tante le novità. Da Kohl's, department store americano, è stato installato un camerino intelligente che, grazie a un touchscreen, dà la possibilità di verificare in tempo reale l'esistenza in magazzino di capi in tagli diversi da quella che si sta provando. Con un invio, la commessa del piano riceverà una notifica e reperirà per noi i capi aggiuntivi. L'attesa potrà essere evasa andando a curiosare su stili e accostamenti suggeriti. Solo all'estero? No. Il recente OVS, inaugurato in via Dante a Milano, grazie ad un accordo con Google Enterprise, è super tecnologizzato. E sarà l'app in questo caso a dirci se esiste un capo come quello che ci piace, ma in altra taglia o colore. Il Magic Fitting Room ci permetterà quindi di richiedere in tempo reale altri capi da provare e nel frattempo condividere per un consiglio via social network le nostre scelte d'acquisto. Volendo, possiamo anche visitare il negozio dal divano di casa grazie a Google Street View. E infine, via app e sito, possiamo fare shopping online e ritirare direttamente il negozio. Un modo intelligente di proporre uno shopping a 360 gradi, dove virtuale e reale si fondono in un'unica esperienza d'acquisto, divertente e non banale. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. I cosmetici resistono alla crisi, i consumatori non più solo donne da tempo perché la quota maschile continua a crescere, non rinunciano ai prodotti per la cura e la bellezza. Il consumo supera i 9 miliardi di euro con un calo marginale rispetto agli altri settori. Tutto questo rivela il Beauty Report 2014 elaborato da Cosmetica Italia. È un settore resiliente e aciclico, ci ha detto il presidente Fabio Rossi. Il settore cosmetico da moltissimi anni è aciclico, nel senso che non risente sicuramente di quella che è la crisi attuale, una crisi strutturale, come ben sappiamo, e non congiunturale. Certamente chi è fossilizzato su quello che è il mercato italiano non sta vivendo benissimo, sta pagando duramente il problema del potere d'acquisto del consumatore. Però le nostre aziende hanno avuto appunto una fortuna nel tempo di creare eccellenza, di internazionalizzarsi molto, e questo sta aiutando perché l'export sta dando un più 11 e quindi il risultato finale è un più 2-3 punti per cento di un settore che quindi è comunque trainante nel nostro, in un quadro economico direi un po' disastrato. Parliamo del consumatore e delle sue abitudini, come stanno cambiando, che cosa compra di più in quanto a prodotti cosmetici e dove? Beh, certamente, il consumatore in Italia ha subito un mutamento negli ultimi, direi, 4-5 anni significativo. Abbiamo dei negozi monomarca low cost che hanno avvicinato sicuramente molto il consumatore all'utilizzo del make-up, anche il consumatore molto giovane, quindi troviamo teenager che prima magari o non se lo potevano permettere o non iniziavano a giocare col cosmetico, e questo è sicuramente un trend importante. C'è l'altro trend che continua ad essere presente, quello delle unghie. Pensiamo che un tempo, semplicemente 10 anni fa, ci sarebbe sembrato veramente folle vedere unghie di certi colori o disegnate o con i brillantini, tipicamente lontane dai nostri gusti culturali. Oggi sta cambiando nella globalizzazione i gusti, la percezione, il piacere anche di giocare con se stessi, di offrire un'immagine di se stessi diversa, e credo che sia una grande opportunità che la cosmetica ci dà. Il maschile, per esempio, tiene poi il suo 30%, quindi un terzo del mercato maschile. Vorrei chiudere ricordando, sottolineando un dato per gli ascoltatori: il 65% del make-up distribuito nel mondo è fabbricato in Italia. Vengono prodotti in Italia, pochi lo sanno, moltissimi brand mondiali, ma non è soltanto un conto terzismo, è una capacità di progettare, c'è una ricerca e sviluppo importantissima, un'eccellenza che spesso le nostre istituzioni si dimenticano, ecco, e vedono la cosmetica e dicono: ma no, non vediamo troppi brand italiani, e non si rendono conto invece di quanto l'Italia conti e questi 10 miliardi di fatturato portino al nostro sistema. Essere e avere. È stato quel giorno che ho deciso. Un incidente facendo le corna e i miei organi sarebbero stati pronti per qualcun altro. L'ho chiesto pensando ai miei, alla mia donna, per togliere a loro di dover prendere la decisione in un momento difficile. E andava bene così. Quando qualcuno mi dice che ho fegato, penso che quello che ho non è nemmeno il mio. Non so cosa mi ha portato sulla spiaggia quel giorno, in quel posto. Grazie amico, fratello. mila nuovi donatori in 18 mesi, questo è il risultato della campagna sulla donazione d'organi realizzata da Pubblicità Progresso, un altro pezzo importante per la storia della comunicazione sociale in Italia, ma non solo, perché Pubblicità Progresso è diventato ormai uno dei principali punti di riferimento della comunicazione sociale a livello mondiale. Una campagna, quella sulla donazione d'organi, che è riuscita a scuotere le coscienze, così come quelle entrate nella storia e nel costume italiani sulla donazione del sangue, sulla sicurezza sul lavoro, contro i pregiudizi verso i malati di AIDS, sul rischio idrogeologico, solo per citarne alcune. Un risultato straordinario, sottolinea il presidente di Pubblicità Progresso, Alberto Contri. sicuramente l'aggettivo straordinario ci sta tutto e ci sta a maggior ragione se consideriamo il fatto che con i tempi di crisi soprattutto la stampa, ma anche la RAI in particolare, hanno dato pochi spazi e ce la siamo cavata grazie al fatto che nella nostra squadra c'è un folto gruppo di giovani multimediali innovativi, abbiamo utilizzato molto i social network, abbiamo fatto una campagna che sfrutta appieno le potenzialità dei social network e quindi abbiamo portato a casa questo risultato francamente notevole, perché oltretutto misurare le campagne sociali non è semplice, in questo caso è misurabilissimo anche perché ci sono i numeri e quindi siamo particolarmente contenti. L'altra cosa che mi preme dire è che tra le tante iniziative che abbiamo fatto ci sono questi concorsi che noi facciamo tutti gli anni, anche adesso ne abbiamo uno sulla nuova campagna che stiamo facendo, coinvolgendo gli studenti universitari di questo network catena che abbiamo costruito nel tempo con oltre 80 docenti e amici di Pubblicità Progresso, che fanno fare degli studenti dei laboratori, dei concorsi, di idee, di progetti di marketing non convenzionale. Essi stessi diventano i viralizzatori della campagna. Questo è stato, secondo me, uno dei motivi del successo. Poi anche il fatto che abbiamo utilizzato molte tecniche particolari, abbiamo sfruttato gli eroi di Bonelli, i cui illustratori si sono offerti di mettere Tex Willer piuttosto che Martin Mister nella posa di quello che aveva la car dell'Aido. Insomma, ne abbiamo fatto veramente di tutti i colori e comunque siamo andati a presentare al Quirinale e devo dire che il Presidente, che ha seguito tutto con molta attenzione, è rimasto molto colpito da come si fa oggi una campagna sociale multimediale. Ancora una volta Pubblicità Progresso, come è stata nei suoi anni di storia, fa cultura, come è successo già per la donazione di sangue, per le campagne ambientaliste, e questo insomma è il risultato che poi si raccoglie a lungo raggio. Beh, direi proprio di sì. Ancora stamattina, alzandomi presto, ho visto una notizia in cui è venuto fuori che i ragazzi dell'Università di Padova hanno organizzato per tutta la città dei flash mob sul tema della nuova campagna sulla parità di genere, che c'entra proprio con la cultura, perché invertire gli stereotipi sul problema della parità è molto difficile, e mi si è riempito il cuore di soddisfazione, perché vedere una università in cui i ragazzi sono partiti in quarta e hanno fatto delle iniziative che hanno messo a suo quadro tutta la città, inventandoci poi cose nuove rispetto alla campagna che abbiamo fatto noi. Quindi vuol dire che i ragazzi lavorano, ci pensano, riflettono, studiano insieme ai loro professori di marketing e comunicazione e economia, che sono quelli a cui ci rivolgiamo in genere, e quindi questo è un fatto, lei ha detto la parola giusta, la parola cultura è diffondere la cultura della comunicazione sociale, che è ben diversa da tutta quella comunicazione penosa, triste che vediamo tutti i giorni, che non serve assolutamente a niente e che crea un gran rumore di fondo. Quindi siamo molto soddisfatti e adesso siamo impegnati su questa nuova, sulla parità di genere, ne riparleremo fra un po'. Italian Factor. Nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca di un'italianità tutta da individuare e valorizzare è il viaggio alla ricerca dell'Italian Factor ispirato da Francesco Morace. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti. Abbiamo visto quanto contino in questo percorso le storie di chi ha saputo meglio interpretare le chiavi di eccellenza della tradizione, della creatività, dell'intuizione made in Italy. Sono i casi paradigmatici, casi aziendali di successo. Qual è quello di oggi? Quello di oggi è Yux ed è molto importante perché dimostra come l'Italia e gli imprenditori italiani possano e sappiano interpretare anche il mondo del web. Perché Yux intanto è uno dei pochissimi casi italiani di venture capitalism, perché l'idea del fondatore viene colta da Serino Piola e viene poi finanziata nel tempo, ma è soprattutto l'idea che un mondo come la moda, che per anni è stato considerato lontano dalla dimensione digitale e dalla possibilità, almeno in Italia, di essere venduta online, invece diventa la lampadina che si accende nella testa di Federico Marchetti, che è il fondatore e che oggi rappresenta la base di successo di Yux, perché le marche della moda italiane e non solo vengono vendute da Yux in più di 100 paesi del mondo. Quindi un incontro virtuoso tra la tradizione manifatturiera italiana e la new economy, uno dei binomi di successo che abbiamo più volte individuato come chiave per la scommessa dell'Italian Factor. Sì, ed è anche quella linea di frontiera che noi italiani dobbiamo in qualche modo comprendere, perché abbandonando l'idea che la manifattura non possa essere addirittura valorizzata attraverso il digitale, significa immaginare nuove forme anche di distribuzione, di comunicazione, e mettere al centro quella famosa innovazione combinatoria che ci rappresenta, perché l'innovazione all'italiana non è disruptive, no? Non è mai davvero di rottura violenta con il mondo precedente, ma è combinatoria, quindi l'idea di raccogliere prodotti della moda che sono in qualche modo in scadenza, tra virgolette, e invece riproporli in un circuito molto avanzato attraverso il web è davvero un'idea geniale, è l'uovo di Colombo, che però pochi in Italia hanno capito di poter sfruttare. Francesco, un brand costruito sull'eccellenza di altri brand, un vero e proprio moltiplicatore dell'eccellenza italiana. Esatto, e la genialità, perché in questi casi paradigmatici c'è sempre un elemento di genialità, no? Che noi abbiamo individuato, e qui la genialità è quella di incanalare e poi vendere la creatività degli altri e farlo comunque in modo creativo, cioè si ridà dignità a quell'elemento che è la distribuzione, la vendita, la comunicazione, che troppo spesso viene invece considerata in Italia marginale, no? Non così importante. Noi alla fine pensiamo che la vera e sola creatività sia quella legata al prodotto. Ecco, invece bisogna capire che c'è uno spazio infinito di applicazione creativa anche in queste altre dimensioni. Grazie a Francesco Moraci e grazie a Pietro Lacorte in regia. Veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti in attesa di risentirci sabato prossimo alle 16:30. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.